La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. L'articolo 69 stabilisce che i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge per le loro funzioni di parlamentare. Questo è un articolo intorno al quale ci sono state antiche e moderne polemiche. Le polemiche sono antiche perché, tradizionalmente, l'attività di parlamentare era completamente gratuita. Lo stabiliva anche lo Statuto Albertino, che all'articolo 50 prevedeva le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità. Questa previsione discendeva dall'idea tradizionale ottocentesca che le funzioni parlamentari potessero essere in pratica svolte soltanto da determinate classi sociali che non avevano bisogno di essere pagate anche per andare in Parlamento. Del resto, sappiamo bene, l'abbiamo ripetuto più volte, che per tutto l'Ottocento in Italia votavano percentuali molto basse della popolazione, popolazione solo maschile, con determinata istruzione, determinato reddito. E quindi, in assenza del suffragio universale, non c'era ragione di pagare l'attività di parlamentare. Tutto cambia col 1912, perché è col 1912 che in Italia si arriva al suffragio universale maschile. E infatti, accanto al suffragio universale maschile, è la legge numero 655 del 1912 a prevedere che il parlamentare possa essere retribuito. Facendo un salto di decine di anni, arriviamo all'attuale disciplina. Perché negli ultimi anni si è lungamente discusso: è giusto e legittimo che un parlamentare venga pagato? Ma è giusto e legittimo che un parlamentare venga pagato molto? Il punto è abbastanza delicato. Sicuramente è giusto che i parlamentari vengano retribuiti, perché si tratta di un'attività che va a sostituire la normale attività lavorativa. E quindi, non che il politico sia una professione, ma nel momento in cui svolgi le funzioni di parlamentare, devi essere tranquillo di non dover svolgere altri lavori per poterti mantenere. In questo modo, da un lato, hai tutto il tempo di poter assolvere alle funzioni parlamentari liberamente, ma al tempo stesso eviti anche eventuali conflitti di interesse che sopravvengono svolgendo altri lavori mentre sei parlamentare. A mio avviso, la Costituzione è pienamente legittima nel prevedere che esista un'indennità di parlamentare. Tuttavia, va stabilito qual è la giusta quota. Sappiamo che negli anni si era pensato di porre uno stipendio abbastanza alto per i parlamentari, in maniera da dare anche la possibilità di vivere serenamente e di evitare tentazioni che potessero nascere dalla propria attività, quindi per prevenire eventuali corruzioni. Sappiamo oggi che il punto invece è soggetto a grandi polemiche, perché molti pensano di dover tornare a una quasi gratuità dell'attività parlamentare. Tuttavia, dobbiamo riflettere che se l'attività di parlamentare torna ad essere gratuita o quasi gratuita, a quel punto il deputato o il senatore non sono più liberi di poter svolgere soltanto le loro funzioni parlamentari e quindi si possono creare conflitti di interessi ulteriori.